Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Pongo la domanda a chi mi ascolta. Come devo comportarmi se una volta, viaggiando in treno, incontro una persona che conosco? Fingo di non conoscerla. Ci parlo come se non la conoscessi, prendendo in giro chi mi ascolta, millantando un incontro con uno sconosciuto, quando in realtà, come nel caso della mia amica Nadia Busato che ho davanti, è una persona che conosco da tanti anni. Ci vediamo poco perché lei sta a Brescia, io sto a Roma. Ogni tanto mi capitava, una volta ogni 2 anni, di capitare a Brescia, e Nadia è sempre stata la mia guida. Lei conosce i ristoranti, conosce i vini, conosce le storie, insomma è un supporto valido. E adesso la vedo in treno e di lei so che fa la scrittrice. Adesso si dirà, adesso ci fai la marchetta del libro, ma no, ma che mi importa, che me ne viene, assolutamente nulla. Però è vero, Nadia ha scritto un libro di cui si sta parlando, un libro che sta in qualche maniera scontentando le persone che lo leggono, perché il suo Padania Blues è un libro che in qualche maniera dà una versione dall'interno, ma non molto idilliaca e felice, di quell'area dell'Italia che veniva considerata come una sorta di luogo paradisiaco. E quindi comincio a parlare con Nadia, anche se poi non è che mi interessi il suo libro, quanto mi interessa sapere che fine ha fatto lei in questi ultimi anni. Facciamo tutto a tempo reale, sennò la gente pensa che sono tutte cose preparate. Qua non c'è niente di preparato. Scrivi Padania Blues, ecco, immediatamente mi guardo la versione digitale sul mio tablet e vedo 260 pagine. Io, da infame millantatore di spessore culturale, dico mamma mia, che impegno. Poi mi rendo conto che, lambendolo e sfogliandolo, tu me lo neghi, ma qui c'è i racconti che mi faccia Nadia la sera tante volte davanti al bicchiere di vino, delle sue avventure, delle persone che conosce, delle delusioni, di quei meandri di provincia che conosce soltanto chi la provincia la frequenta e vorrebbe scapparne. Ecco, c'è qualcosa di vero in questo, in questa mia prima lettura superficiale, che sto guardando le prime pagine. Sì, no, è tutto verissimo, cioè, ma la dichiarazione che ho fatto all'inizio del libro è proprio che tutte le cose che ci sono in questo libro sono assolutamente vere, non ho inventato niente. Le ho intrecciate come si faceva con quel giochino che avevamo negli anni 90 per fare la maglia. Quindi ho preso tutte queste storie e le ho intrecciate. Te l'avevano regalato a te il giochettino per fare i maglioncini? No, io avevo il dolce popcorn, proprio quello più sfigato di tutti. È diciamo la versione povera del dolce forno. Il dolce forno era meglio. Dolce popcorn era proprio una stronzata. Ci mettevi dentro i semi di mais e faceva il popcorn. E poi ne avete 10 perché di più non ce ne stavano. Se le mettevi in una padella col coperchio non facevi prima. Infatti ho imparato presto a usare. Cioè, se tu eri una bambina povera, metti per assurdo, prendevi una padellina di casa e ci mettevi il coperchio con tutti i tuoi simini, te ne potevi fare quanti volevi. Certo, la bambina ricca c'aveva il dolce popcorn. Ma rischiava però di essere fulminata, perché il dolce popcorn tra l'altro era pericolosissimo. Ma il dolce forno l'hai mai visto? Dolce Forno l'ha vista, certo. È una stronzata, c'era una lampadina dentro. Il biscottino scuoceva col caldo della lampadina. Una cosa che penso che saranno morti di malattie innominabili, non so quanti bambini, perché la lampadina che scalda con un biscottino, ma com'è possibile? Beh, infatti chissà quanti incendi negli anni 90 sono stati dovuti ai giochi dell'arte. Solo che adesso sono le lampadine a LED, quelle fredde. Il dolce forno non esiste più. Con che scalda? No, non si può più fare. Pensa se scoppiava la lampadina e i pezzettini di vetro andavano nel biscottino, il bambino se lo mangiava lo stesso. Adesso l'Arbert farà le app. Ma guarda, tu hai 40 anni, tu queste emicranie non le hai conosciute, le conosce la mia generazione che viene dalla guerra. Tu 40 anni, figura, hai vissuto negli anni più belli e spensierati del nostro paese. Beh, io ero povera, leggevo dei miei cugini che avevano 10-15 anni più di me. Ah, eri una bambina povera, beh, questo è bello. Ma camminavi scalza, con i piedini nudi? Mi vestivo con i vestiti dei cuginetti, quelli usati, tutte con le toppe. E ti vergognavi di questo? Ma insomma, ero un maschiaccio, poi mi tenevano qui i capelli corti. Com'è adesso sei una femmina così prorompente? Scusa, se era allora un maschiaccio. Beh, assolutamente, è come dire, è il contrappasso, no? No, dai, racconta, questo mi interessa, perché è alla base di tutto questo libro, che è un atto d'amore e di disprezzo per le radici. C'è sicuramente questa fanciullezza vissuta come piccola Cenerentola, bella ma coperta di stracci, che tutte le amiche che già avevano. Dunque, tu l'adolescenza che anni erano più o meno? Mia adolescenza erano gli anni 90, quando è arrivato il 2000 io compivo 21 anni. Mamma mia, santo giovane. Proprio tutti gli anni 90, Beverly Hills 90210, la frangia banana, i roller. Però tu come facevi a essere come quelle ragazze lì che tutto sommato frequentavano un bel mondo? No, io ero... E non potevi, se eri povera era impossibile. Sì, no, io ho avuto un'adolescenza terrificante, proprio nei paesi della periferia, delle città di piccole dimensioni, in mezzo alla macroregione. Stranger woman tries to save all that a man will try to drown. And it's the rain that they predicted. It's the forecast every time. The roses died because you picked it. I'm out here. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Logica, spazio, tempo. Module Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Io l'adolescenza la ricordo con grande infelicità. Pensi qualcosa che ti pesava? Io ti dico la mia, tu mi dici la tua. Io mi pesava a settembre, quando cominciava a essere le giornate più corte, che bisognava tornare a scuola. e lo squallore della casa emergeva in tutto il suo splendore, perché l'estate tanto non te ne accorgevi, c'era questa luce accecante, non vedevi gli angoli sporchi, i divani rappezzati, l'odore di muffa e di cavolfiore. Ecco, invece a settembre veniva tutto fuori, questo è il mio squallore, il tuo qual era? Devo dire anch'io ho una collezione di sgradevoli odori dell'autunno, con lo shock delle giornate che si accorciavano. Io arrivo dalla prima zona della Franciacorta, quindi dove non c'erano le vigne, però invece si raccoglieva il primo mosto. Quindi l'odore di mosto dappertutto. Del mosto acido. Sì. Che chi vive nelle terrazze romane pensa che bello il vino pestato con i piedi. Era una cosa che ti soffocava, una puzza che ti soffocava. Ti ricordi? No, tremendo. Tremendo. Quella roba, quei graspi di uva spiaccicati che uscivano dalla diraspatrice, facevano una montagna e andavano tutte mosche, moscerini, oltre la puzza di putrefazione, era terribile. Sì, perché poi doveva stare il primo mese nelle vasche, e doveva fare la prima fermentazione, e proprio è una di quelle cose che inzuppava l'aria, quindi tu entravi in questa atmosfera, e mi ricordo l'urto del vomito quando la mattina uscivo per fare la strada, andare a prendere l'autobus, poi prendere l'autobus era un'ora di tragitto per arrivare a scuola, e di nuovo il ritorno con le giornate ancora calde e questa puzza densa, che perché poi era anche il momento in cui si azotava la terra o poi si riconcimava prima dell'inverno. Perché c'era un concetto che si chiama urea, che altro non era estratto di pipì, capito? Quindi è una cosa schifosa. La mia mamma se ne stava in fila per delle tette sode taglia quarta, ha avuto la nausea, se n'è fuggita in bagno, e anche troppo discretamente. Ci è rimasta pure un bel po'. Intanto si arriva alla fila delle quarte, poi quella delle terze, col capezzolo sempre turgido. Qua parli di tette, cos'è? Ma l'ho preso a caso, non voglio dire. Spiegami questa cosa. In questo libro c'è una protagonista assolutamente scorrettissima, che è una ragazza che io non sono mai stata, ma che per tanto tempo avrei voluto essere, che è la bella del paese, quella che almeno una carta per uscire ce l'ha e che non deve fare la fatica di emanciparsi con la personalità, con lo studio, con la cultura. Lei fa la parrucchiera, sogna di diventare una velina, e questa fa parte di questa grande era già sulla buona strada, perché la parrucchiera nei paesi è la dispensatrice di tutte le lussure segrete a tutte le donne del paese, sa tutto, fa tutto, e a sua volta è diciamo l'elemento, la concupiscenza di tutti i mariti, è la parrucchiera, si sa. Beh, no? Certo, sì, poi la giovane apprendista parrucchiera, figurati, certo, nella cerchia delle mie amiche del paese, quelle che non hanno fatto i miei studi, quindi condannate all'università, o sono diventate operaie o sono diventate parrucchiere, si sono diplomate comunque con qualcosa che gli permettesse di andare subito a fare il tecnico di laboratorio, l'operaio. E però vivevano meglio di te. La qualità della vita era migliore per allora, per loro. Beh, avevano i soldi, riuscivano a lavorare, erano belle, bei vestiti, i ragazzi, e figurati. Sì, assolutamente. Erano, come dire, facevano, io ero persa nella letteratura, quindi sognavo l'uomo che mi scriveva le poesie, e loro valutavano già che macchina avevano, i ragazzi che frequentavano, dove andavano a prendere l'aperitivo, perché c'era il posto che costava di più, quindi lui aveva già dei soldi o li aveva di famiglia, perciò andava bene quella cosa. Si facevano un professionismo diverso dal mio, diciamo così. Non trovi che però è descritto quello che oggi viene chiamato il paese reale? Loro erano il paese reale, tu eri il paese irreale, quello che pretende di avere letture mediate della realtà, trasposizioni oniriche, il senso poetico della vita, l'interpretazione. Tu eri già fuori posto in quel contesto in cui il successo era dato appunto da saper valutare l'uomo giusto, dal tipo di aperitivo che ti offre. Hai detto una cosa molto giusta, e devo anche dirti che molta parte delle critiche che sono arrivate al romanzo è proprio che parlo di una fetta della popolazione molto reale, molto bassa, che non si riscatta mai. E io appartengo, mi sono appartenuto per tanto tempo, alla sinistra delle ZTL, come oggi viene chiamata. Ma tu non sei una radical chic, ti conosco da tanti anni, non sei confondibile con la signora radical chic che guarda tutto dall'alto della terrazza, ma stiamo scherzando. Beh, ti ringrazio però. Ma no, ti conosco, figurati, te lo direi, che mi frega. Vabbè, certo. Ti dico che c'hai il culo grosso, ma non ti dico che sei una radical chic. Cioè, io sono una persona che non ha problemi nel dare giudizi sinceri. io e le mie amiche femministe che facciamo grandi discorsi sugli ideali, sul femminismo, in realtà siamo tutte donne con la presunzione di esserci emancipate dalle ragazze di paese che siamo state e da altre donne che tutto sommato giudichiamo dall'alto in basso, anche per gli uomini che hanno a fianco, anche per la situazione di vita che hanno, anche per le basse ambizioni che possiedono. Però se tu da Brescia te viene a fare una passeggiata a Milano, già ti guardano le altre dall'alto in basso, sarà difficile, l'odore bresciano non te lo levi di dosso, purtroppo la scala del radical chicchismo c'è sempre un gradino sopra di te, perché è un empiro del tutto immaginario, capito? Però non si vede mai chi c'è sopra, ma si vede sempre chi c'è sotto, c'è sempre delle persone che rideranno, beh, quella viene da Brescia, figurati, hai capito? È questo il fatto. Assolutamente. E non è così. Sì. Ma certo, no, assolutamente, c'è un pezzo all'interno del libro in cui lei immagina questo dialogo con un agente fittizio che le dice: non va bene il paese da cui vieni nella tua biografia, ci deve essere qualcosa di più esotico se vuoi fare successo, che è quello che succede anche a me, perché io, come dire, entro nella letteratura e scrivo dei libri che poi sono anche giudicati buoni, ma questo viene completamente scisso dalla mia biografia, che ha questa macchia originaria di essere nata in una piccola città e di non avere niente di esotico da raccontare. Non sono cresciuta a New York, non sono mai andata ad abitare a Città del Capo, cioè non c'è niente nella mia vita che mi renda interessante a me come personaggio, e quindi essere giudicata solo per il merito di quello che faccio, devo dire, nell'ambiente italiano è paradossalmente impossibile, no? È chiaro, però vediamo di vedere, visto che il tema è l'emanciparsi dalla provincia, certo, mantenendo però il vantaggio che ti dà essere nata fuori dagli schemi ripetuti e standardizzati delle cosiddette persone di successo. Se ti guardi però alle spalle, quelli che sono gli esiti delle tue amiche che sceglievano il fidanzato con la macchina bella, con l'aperitivo costoso e via dicendo, tutto sommato hanno una serenità e una tranquillità di vita, perché sono stati alle regole e non hanno pensato di uscire fuori, che tutto sommato vivono meglio di te, ti guarderanno come una sorta di aliena, qualcuno che è venuta fuori, ha sdirazzato, come si dice dalle mie parti, capito? Perché la provincia o la vivi fino in fondo, non rinunci a farne parte, o se ti allontani emotivamente, come fai te, bisogna allontanarsene anche fisicamente, non tornare più indietro, come Ulisse e le sirene, non guardare più indietro, sennò ecco, sentirai sempre quell'odorino di mosto e di concime. Sono assolutamente d'accordo. Una cosa che sicuramente loro hanno imparato a fare è assorbire l'idea della protezione dei segreti, perché la provincia poi è proprio lì, quindi un'apparenza di serenità, di rispettabilità, perché hai aderito alle regole, come dici tu, quindi hai aderito ai modelli, a quelli hai puntato, e il modello è rispettato, diciamo, nelle sue macro linee, ecco. E dentro a quel modello lì i segreti che riguardano la frustrazione, l'infelicità, l'infedeltà anche, sono... È vero che nei paesi, almeno c'è un amico calabrese, sono tutti cornuti perché ognuno fa le corna all'amico con la moglie dell'amico ma non sa della propria, qualcosa del genere anche da voi accade? Ma, sì. Vabbè, adesso che vuoi, mica più complicato. Più complicato, no, spiegami, questa è la complicazione che mi interessa. Ma devo dire, questa è una teoria personale, però ammetto i miei limiti. Fidanzati del Sud Italia, delle amiche, avevano questa teoria, no? Che tutte le amiche delle fidanzate ci provavano con loro. Vabbè, poi entra anche tutto un concetto di mascolinità. Devo dire perché che erano convinti di essere, diciamo, di portare un seme di impavida virilità che non avevano i bresciani, perché loro venivano dal sud, certo, è chiaro. Devo dire che noi al nord siamo più industrializzati, quindi qui c'è una diffusione della prostituzione e una presenza quanto i centri commerciali. We swim with sharks and fly with aeroplanes in the air. Sitting in the tram, it's the marching wheel. chairs, open the blankets and give them some air. Swords and arches, bones and cement, the light in the dark of the innocent of man. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Però un'amica mi diceva, vedi, i vicentini vanno nei quartieri dove battono i trans a, che ne so, a Padova, i padovani vanno a Verona, i veronesi, c'era una sorta di, diciamo, sì, scambio limitrofo, capito? Quindi sì, i veneti vengono in Lombardia, i lombardi vanno in Svizzera, i piemontesi se ne vanno in Liguria oppure scavallano dall'altra parte. Sì, sì, no, certo, si cambia regione perché ovviamente così non si vede nessuno, sei più tranquillo, la tua reputazione è a posto, è la regola numero uno. Quindi ancora i peccatori di provincia della letteratura esistono, quindi allora vuol dire, visto che, non, che siamo privi di ogni lettura moralistica della realtà, almeno si divertono un po' più in provincia, no? Rispetto a nelle città, la noia abissale delle città, degli aperitivi, delle cene a casa degli amici, delle chiacchiere, dei vernissage, dei libri presentati, delle prime dei film, un suicidio, no? Per fortuna devo dire che questa che tu descrivi è molto piccola, perché le nostre città sono fatte sempre più di vuoti urbani e di periferie, di disagio, quindi il paese si sta mangiando la città, anche se diciamo esattamente il contrario, dove per esempio in città grosse come Roma i quartieri periferici, le borgate vivono esattamente con le stesse dinamiche di un paesino di provincia. Sto scorrendo sempre il PDF del tuo libro. Barbie chi è? Vedo ricorre questa Barbie. Sì, Barbie è la protagonista Barbara, tutti i protagonisti hanno dei nomi da pupazzi, quindi il gioco con i lettori, anche perché essendo tratta da una storia vera che diventò un'inchiesta, quindi anche sull'Espresso, insomma, ci furono delle notizie su questo caso di questo incendio che devastò un paesino del nord Italia e che derivava da una guerra tra due parrucchiere in cui l'unica superstite era questa sciampista che si era fatta trascinare in questa sordida storia per rifarsi di sene e fare il provino per partecipare a Venine, aveva bisogno di essere tutelata, perché loro ovviamente quei tempi della giustizia italiana sono ancora. Ah, perché diciamo, si poteva risalire poi al vero fatto di cronaca. Eh sì, naturalmente sì. Per fortuna ancora ci è ancora riuscito, almeno io non ho ancora ricevuto una denuncia, però vediamo, insomma, tutto può succedere. È uscito, è in ristampa da pochi giorni il libro, quindi potrebbe ancora succedere di ogni. Speriamo di no. Ma però se parli di una ragazza che vuole fare la velina, diciamo, è quasi un romanzo storico, perché appartiene a un'epoca che non è più quella attuale. Oggi le ragazze vanno a fare, che ne so, le protagoniste su TikTok, non so, esiste ancora il mito della velina secondo te? O perlomeno in provincia permane? Cioè, mi sembra ormai una cosa da vecchietti, da nostalgici, guardare le veline, no? Però le percentuali di persone che guardano la televisione, soprattutto sono tanti anni che racconti la morte, la fine della televisione, però la provincia è anche quella cosa lì, quella dove la televisione è ancora la compagnia di casa, c'è un televisore per stanza ed è acceso tutto il giorno con personaggi che sono, come dire, la famiglia li chiama per nome, perché sono talmente parte della vita quotidiana di ogni componente della famiglia, e se tu cresci in quell'ambiente lì i personaggi televisivi li conosci, sono quelli come quando sfogli i rotocalchi. Cioè, mi illumini a questo punto sulla genialità di Maria De Filippi, il pomeriggio c'è Uomini e Donne che tutti conoscono per nome, con le tardone che escono con i ragazzetti, dalla virilità assolutamente improbabile, e che però in tutte ci si possono riflettere. Gemma può uscire con un ventenne, quindi qualunque settantenne può pensare che anche per lei c'è un giovane palestrato e tatuato, capito? Stavo pensando esattamente quello, cioè una volta c'era la velina, adesso c'è la tronista, però quello è, cioè tu sei lì perché sei procace, sei come dire anche un po' sboccacciata in un certo senso, sei verace, diciamo così. Però hai notato che le menti più brillanti, quelle che ogni tanto segnano qualcosa di nuovo, di originale nel panorama del pensiero perlomeno, hanno tutte un forte ancoraggio con la loro provincia d'origine, anche se l'hanno rinnegata, abbandonata, che soltanto dall'inflessione dialettale, dalla tipologia, ma tutti, dai rompicoglioni ospiti fissi nei talk televisivi, alle scrittrici, appunto, alle opinioniste, che ne so, c'è sempre una forte origine provinciale che le contraddistingue, quindi sono le più arrabbiate. Qualche volta sì, è vero, hai ragione, credo sia un po' la mitologia di Pavese, no? Un paese ci vuole, non fosse altro per la voglia di andarsene via. Ci sono anche delle province a cui è affascinante radicarsi, per cui quando tu arrivi da una certa zona a un certo punto puoi connotarti territorialmente in maniera definita. Come dire, io non ho mai fatto leva su questa cosa qua, la provincia da cui arrivo io non ha niente di nobile. Vabbè, perché scusa, che vuol dire? Non avrebbe neanche nessun fascio. Beh, ci sono delle altre zone, sai, che magari sono state colpite dal terremoto. Vabbè, scusa, particolari. Ti faccio un esempio, perché la conosco. Michela Murgia viene da Cabras. L'avevi mai sentito? Era famoso per la bottarga. Michela Murgia viene da Cabras, è diventata una delle menti di questo mondo radical di cui stiamo dicendo, però più conosciuta, più visibile, più sentita, capito? Sì, lei, devo dire, ha anche scritto una guida della Sardegna in 10 parole chiave quando era molto più giovane, è andata a teatro interpretando Grazia Deledda, cioè ha fatto del sardismo una delle sue caratteristiche. A me mi ci vedi a scrivere una guida della Valle Camonica? Vabbè, che ne so, magari dopo che ti sei vinta un campiello può essere, ma ti chiedono anche questo, che ne sai, potrebbe venire, sì, no? Chi lo sa. Sì, chi lo sa, non... Cioè, non devo dire, non ho mai pensato di farne un tratto della mia vita, però chi lo sa, magari prima o poi. Ecco, qual è l'aspetto truce della provincia invece che tu racconti, anche perché lo conosce, hai vissuto, cosa c'è di truce, di spietato, di indicibile nella provincia, proprio dal punto di vista di cui stiamo parlando naturalmente? La provincia che racconto io, e mi fa piacere che chiunque l'abbia letto, del nord Italia, quindi dal Monferrato a Udine, mi abbia poi scritto sempre al paese da cui me ne sono andato. Questa provincia è una provincia dove mancano gli adulti, se noi intendiamo come persone adulte, delle persone che riescono a trovare, diciamo, l'equilibrio tra i loro sogni e il cinismo poi della realtà, e in tutto questo a costruire un equilibrio dove sono consapevoli e sanno prendere delle decisioni in maniera ponderata. Nel romanzo tutte le persone di tutte le età, e ci sono due generazioni diverse a confronto, vivono di piccole illusioni e di tantissimo stordimento che arriva con l'alcol, che arriva con le droghe, che arriva con gli amorati, per cui veramente si è un po' da uomini e donne, cioè si aspetta questo colpo di fulmine che ti faccia sentire come drogato, con una relazione nuova che a un certo punto ti porti via. Però manca invece... Però, i tuoi personaggi sono personaggi che comunque non hanno il problema di riempire il loro spazio quotidiano, comunque hanno dei lavori, hanno delle professioni, fanno delle cose, è che il loro problema è riempire i momenti del relax, i fine settimana, quando tirano giù la saracinesca del negozio, questo è il problema. Non sono proprio gli sdraiati di cui parla Serra, capito? Per questo è il paese reale, magari, perché è gente che comunque lavora, è gente che mantengono in piedi l'economia generale, capito? Però anche loro sono esseri umani, qualcosa devono fare oltre a lavorare, no? Sì, sì, tra l'altro sono anche, come dire, delle persone che fanno dei lavori, non dico umili, perché si va dall'imprenditore, c'è la casalinga, c'è la parrucchiera, c'è quello che è il negozio. Ma sono gli unici che a cosa possono permettere un'autonomia, di pagarsi un'automobile, di uscire il fine settimana e farsi le vacanze a Ibiza, ma che sono tra le poche persone che lavorano, ma possono anche permettersi di avere quegli status che noi pensiamo che appartengano soltanto a un'elite, a una casta, ma in realtà se tu vai l'estate Ibiza trovi tante parrucchiere, tanti idraulici, tante persone così. Infatti l'incontro tra i due protagonisti avviene al ritorno da Ibiza, naturalmente. Come vedi, guarda, non l'avevo vista, pensa come l'ho colto. Certo, sì, è un romanzo che è costruito sui luoghi comuni, perché sono realistici. Diventa un non luogo Ibiza a questo punto di vista, perché ci passano in maniera indifferente, poi se ne ritornano comunque a mangiarsi le tagliatelle che gli fa la mamma, a fare il passeggio nel luogo dello struscio del paese, a avere i vestiti uguali a quelli di Tronissia De Filippi, ma se li possono permettere, perché se li possono guadagnare. Il salto rischioso è quando non basta più questo, che poi vuoi il SUV, e poi vuoi i generi, il Rolex e via dicendo, allora devi fare qualcosa che va oltre. I due che poi materialmente, come dire, metteranno in atto il piano scellerato che poi distruggerà metà del paese, sono Barbie, che è la protagonista, l'abbiamo già detto, lei ha bisogno di modificare il suo corpo per aderire a degli standard, e questo suo migliore amico, che è anche il suo collega parrucchiere, Michael, unico figlio maschio di una famiglia che lo vorrebbe prima o poi sposato e che quindi fa finta di non vedere la sua omosessualità evidente, che è una persona che si è sovraindebitata, ha comprato una macchina che non si può più permettere, è uno che lui descrive, insomma, quando si descrive dice: noi possiamo avere questa vita da outlet, cioè siamo un po' pezzenti, ma possiamo lo stesso permetterci, con un piccolo indebitamento, di avere delle cose che hanno anche i ricchi, quindi fingere di essere ricchi in contesti dove nessuno ci conosce. There is no end to this story. No. Now that my heart Avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. Vedo che ormai il tarocco non esiste più, esiste la cosa comperata su Amazon o comperata attraverso le compagnie rituali che sanno esattamente dove comprare a un prezzo accessibile, qualcosa di inarrivabile, però quando tutto questo manca poi ci sono quegli episodi che tanto appassionano gli opinionisti di prima pagina dei giornali meritevoli, che cominciano a dire dove andremo a finire, dove saremo, questi giovani, ci sono gli omicidi, le stragi, gli atti di razzismo, gli atti di intolleranza, e c'è la mitizzazione. La mitizzazione di questi piccoli eroi di paese diventano spauracchi nazionali poi, ma è difficile se non ne capisci poi la scaturigine e la base. Tu ci sei andata dentro abbastanza su questo, no? E la cosa che è stata, come dire, in qualche modo che dal metro dello scandalo del romanzo, insomma, se esiste un piccolo scandalo in questo romanzo, è che nessuno dei personaggi si riscatta. Questo mi è stato rimproverato, ma noi siamo abituati oggi a una letteratura che tutto sommato ti ribadisce che se tu sei arrivato alla fine di un libro, l'hai letto, leggi i libri, sei una persona migliore. Io invece racconto un mondo dove nessuno è migliore. Se sopravvivi è già tanto. Scusa, questa è la realtà. Il riscatto è un'eccezione, è qualcosa di miracoloso, è qualcosa che quando avviene suonano le trombe e gli angeli in cielo e gli uomini di buona volontà sono tutti felici. Ma chi è che si riscatta? Ma dove sta scritto? Scusa, la vita è così, la vita è che se persegui la via della distruzione della sfiga muori distrutto e sfigato. Riscatto di che? Sai, noi abbiamo anche questo mito del nord Italia in cui diciamo che è il posto migliore dove si può nascere, vivere e crepare, e c'è lavoro e comunque si sta bene, puoi realizzare questi sogni della casa di proprietà, dell'azienda, insomma qui ci si sta. La mia generazione è la prima che comincia ad andarsene via anche dal nord Italia. L'emergenza Covid, abbiamo visto come è stata gestita dalla sanità, che si vantava di essere la migliore d'Italia. Se cade anche il mito del nord, siamo un po' in draghi di Ti rendi conto, questa è una narrazione su cui non si può nemmeno, non dico criticarla, nemmeno discutere. Guarda la levata di scudi c'è stato quando qualcuno ha provato a dire sì, però magari in effetti cosa? Quindi è un libro politico. Pensavo che era un libro che parlava di cose zozze di provincia, già mi parla di politica. Sì, c'è una grande storia che però ti racconta come le trasformazioni socio-economiche grandi ricadano poi sulle vite più piccole, no? più incapaci di avere davvero un'alternativa e di essere raggiunti da un'alternativa o da un'idea di emancipazione, di riscatto e di non aderenza a dei modelli francamente antistorici, cioè la provincia la custode dell'antistoricità di un'Italia ferma agli anni. Sì, perché oggi è un grosso paradosso. Vedi, tu hai citato, i protagonisti si incontrano dopo il viaggetto a Ibiza, che è il non luogo per eccellenza, è una sorta di esotismo tarocco, che non è più niente, dove trovi tutti gli amici, vedi quelli uguali a te, vestiti come te, che fanno le stesse cose che fai te, che vengono da tutto il mondo. E quindi allo stesso tempo confondersi in questo non modello di non abitante di un luogo e poi pensare che ci debbano essere delle radici culturali, storiche, comportamentali, dialettali da conservare, mi sembra un'azione al limite della schizofrenia. Come fa a essere quello e l'altro? Basta far finta che la realtà non sia diversa, basta continuare a raccontarsela e a creare un mito, a difendere un mito che non esiste più. Apri i libri di geografia e il nord Italia ti viene raccontato come il posto più fertile d'Italia, è benedetto dalle acque del Po. Abbiamo sì, vabbè, questo nel 1961 quando facevo io la prima elementare, ti raccontavano delle due piene del Nilo che rendeva fertile la terra, ma cioè, esatto. È passato. Noi abbiamo ancora questo, come dire, sui nostri libri la pianura padana è ancora descritta così. È uscito un rapporto pochi giorni fa, ma in questi giorni arriva un altro rapporto sui ghiacciai, ci dice che quasi il 90% delle fonti d'acqua ormai sono a un livello di inquinamento tale che sono tossiche. Io abito in una provincia, quella di Brescia, dove ci sono più maiali che persone, e questa sua maiali nel senso suino o maiali, uomini maiali, che si approfittano maiali della virtù delle fanciulle? No, no, no. Senso suino. E questa sovrapresenza di allevamenti intensivi causa dei danni ambientali altissimi. A Ponte di Legno, dove ormai il ghiacciaio settentrionale si sta sciogliendo, guardandolo, si sono portati avanti, stanno facendo le terme perché devono creare un altro tipo di turismo. Cioè è un posto che non esiste più se non sui libri, e quello che esiste è uno dei posti più inquinati al mondo, dove il Covid ha probabilmente colpito più forte perché c'è un legame tra il PM10 e il Covid. Però questa cosa qua non viene raccontata. È difficilissimo parlarne, è di una complessità e di una tragicità, e si condanna anche alla incapacità, no? Se dobbiamo poi sostenere la frustrazione di non poter fare niente singolarmente. Senti, da quanto è uscito questo tuo libro? Giugno, 4 giugno. Ecco, quindi hai fallito il tuo intento principale, che è quello di essere trascinata per i capelli e bruciata al centro di Piazza della Loggia. Se parliamo ancora in treno, non è accaduto questo, quindi hai lasciato indifferenti i tuoi, diciamo, compaesani, concittadini, con regionali, non so come si dica bene. Ho del fatto poche presentazioni ancora, quindi mi aspetto. E come t'hanno accolto? Ti guardano male oppure fa parte del gioco? Anzi, ignoriamola, che tanto chi se la calcola. Ma sai, noi che compriamo ancora i libri e li leggiamo tutto sommato. Io no, il tuo non lo compro, per me l'ho letto mentre parlo con te. Siamo dei masochisti, quindi ci piace soffrire, no? Andiamo alle presentazioni, già andare alla presentazione, la presentazione è un'avventura di scatole per me che la faccio, figurati per chi l'ascolta. Quindi siamo sicuramente dei masochisti che amano la sofferenza. E quindi se qualcuno ci insulta un po' e ce le dice, tutto sommato godiamo. Vabbè, buon godimento, divertiti della tua sofferenza, io sono arrivato e tu andrai verso il tuo paesello, scenderai, risentirai adesso che è stagione l'odore del mosto e della concime nei campi e ritroverai il senso di avere delle radici. Ti saluto, ciao Nadia. Ciao. It's only music. It blows my mind, but it's like that. I'm only one man, what could you tell me?